Amort, ti avrà detto qualcosa il signor Amort? Signor Amort mi ha detto che il caso era grave. Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto? Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire. Cioè, ma immaginale. Che ha fatto? Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui. Ci hai provato con padre Amort? La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. L'incontro di oggi con Forza Italia riveste l'importanza che tutti voi sapete. Mi limito a dire che c'è una profonda sintonia tra le proposte che il Partito Democratico ha espresso alle primarie e le proposte di, che abbiamo avuto modo di discutere oggi con Silvio Berlusconi e Gianni Letta a nome di Forza Italia. Sei sicuro che ne è un'altra volta un sacco di chiacchiere e che poi Berlusca manda tutta puttane alla fine? Dimmi! Ma te! Segretario, sono liste bloccate! Perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti. Siamo quindi lieti, oggi, di prendere atto del cambiamento di rotta del Partito Democratico. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti. Ma scusate, amici miei, ma il povero Renzi, segretario del Partito Democratico, cosa doveva fare? Incontrarsi con Alfano? Con tutti i leader dei partiti inesistenti, piccoli, oppure con Berlusconi, che pur pregiudicato è il capo del partito che è secondo dopo il Partito Democratico nei sondaggi, il partito che ha più parlamentari dopo il Partito Democratico alla Camera e al Senato? Con chi si doveva incontrare? Con chi? Poi molti dicono, vabbè, Renzi diceva che Berlusconi doveva andare in pensione pochi mesi fa, ma questo significa che mandarlo in pensione politicamente non è che non ci devi parlare, non è che, vabbè. Io sono uno di quelli che vorrei consentire a Berlusconi di fare il pensionato. Cioè, io vorrei che Berlusconi dice sempre: io sono un ricco signore che potrebbe godersi la sua pensione. Ecco, io, caro presidente, farò di tutto perché tu vada in pensione. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Oh, c'è un signore che si chiama Fassina, che si è dimesso da vice ministro all'economia. Fassina, sì, caro Parenzo, Fassina. Sì, Fassina, non è che la gente per strada, quando tu esci così, tutti Fassina, conoscono il signor Fassina, non Fassino, Fassina intanto. Non è che la gente lo conosca, beh, lo conosciamo vabbè, noi addetti ai lavori. Comunque, il vice ministro Fassina, ex vice ministro. No, sì, si è dimesso, però ancora non so come funziona là, no? Dice che si è vergognato per il fatto che il pregiudicato Berlusconi, condanna definitiva per la vicenda Mediaset, ha varcato la soglia della sede del Partito Democratico. Cioè, si può fare, secondo Fassina, un governo con Berlusconi, sedere in un governo con esponenti di Forza Italia, cioè amici del pregiudicato, però Berlusconi al Nazareno non può entrare, sono due cose diverse, si è vergognato. E dai, su! Devo dire con franchezza che come dirigente del PD mi sono un po' vergognato. Su questo colloquio non andava fatto, è un errore politico. Guardate, sulla legge elettorale manco scendo nel dettaglio di quello che è successo oggi, perché veramente la gente impazzisce. Pensate a quelli che erano in fila, ho visto delle foto incredibili nel weekend, centinaia di cittadini in fila, credo fosse a Varese, per informarsi sulle tasse, solo per informarsi cosa devono pagare, la Tares, la mini IMU, quando e come devono pagare. Pensate, a questi qua cosa gliene frega, cosa gliene importa di come si vota? L'italicum, lo spagnolum, il porcellinum, il com'è che hanno detto? Guarda, l'italicum è terribile. Sì, è terribile. Mi ricorda l'italicum. La strage dell'italicum. Il pregiudicatellum, eccetera, eccetera. Una cosa agghiacciante, però si deve fare, non scendiamo nemmeno nei dettagli. Cambia poco, c'è solo il doppio turno, ci sono sempre le liste bloccate, eccetera, eccetera. Ma tu hai voglia di sentire Scalfari? Eugenio Scalfari? Hai voglia di sentire Eugenio Scalfari? Beh, anche no. Anche no, Beh, francamente anche no. Che dice che non puoi usare la sintonia con un pregiudicato, la parola sintonia. Ma sentiamo una voce invece, ce l'ho con Renzi perché ha portato a casa nostra un ladrone. Ce l'ho con Renzi perché ci ha portato a casa nostra un ladrone, un evasore fiscale, e che a me non sta bene per nulla. Non era Scalfari questo? No, che scelta, questo era un elettore del Partito Democratico. Però pizzicato. Il concetto è simile. No, forse. C'è una senatrice del PD che si chiama Pezzopane, te la ricordi? No, come no? Abruzzese, la quale dice: uniamoci e sterminiamolo, sterminiamoli, rivolto ai suoi avversari del PDL. Sentiamo. Dico, ma perché c'è cantata sta sfortuna? Ma perché non riusciamo a invertire la rotta? Ora, seppure proseguito il mandato per 6 mesi, io faccio appello a tutto il centro-sinistra. Uniamoci e sterminiamolo. Uniamoci e sterminiamolo. Puoi parlarci dai tuoi problemi. Vabbè. Che novità sulla Chienghe? Nessuna? Vuoi risentire Squitieri di venerdì quando non c'eri dopo? Sentiamo Squitieri. Vuoi sentire Squitieri? Sì. La cosa incredibile di Squitieri, di Pasquale Squitieri? Una cosa pazzesca ha detto, In risposta a una frase di Daniela Santanchè che esaltava la verginità e il fatto che le donne non devono darla, così ha detto lei, non è che lo diciamo noi. Sì, Squitieri risponde in questo modo. Ma quello il problema non è darla, Il problema è prenderlo. Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho 3 figlie femmine, sì. E quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete? Ma insomma è una vergogna. Avevano 10, 13 anni? 10, 13, 12, sì. E che gli hai detto? Che erano ancora vergini? Che era una disgustosa questa cosa che fossero ancora vergini. Ridi, ha detto una cosa disgustosa. È disgustoso lui, è disgustoso. Però secondo alcuni è non è così. È disgustoso lui. 800-24, stai zitto. 800-24-0024. E con noi Paola Ferrari, buonasera. Buonasera. Come andiamo, cara? Bene, abbastanza bene, meglio, grazie. Allora, ma che è successo esattamente? Bene. Perché qui le Iene negano tutto, dicono che non c'è stata nessuna aggressione, mandano pure un video in cui in realtà arriva un tizio davanti alla sera della Rai ieri, sculetta un po' davanti a te, un mezzo matto in mutande, tu entri e non succede nulla, non c'è stata nessuna aggressione. Vabbè, nulla. Sai, allora, innanzitutto bisogna capire che cosa vuol dire aggressione, perché aggressione non vuol dire mettere le mani addosso, picchiare una persona, dargli un pugno in faccia, ma ci sono altri tipi di aggressioni verbali e di altre cose. Semplicemente, guarda, ti ripeto, io parlo di questa cosa perché è venuta fuori ieri pomeriggio dalle agenzie, se no io me ne sono stata tranquilla a farmi curare e non volevo parlarne. Detto questo, visto che non ho avuto anche la poca delicatezza di mettere il video per cercare di farmi passare anche per matta, non per matta, ma per una così mitomane, e allora, dato che grazie al cielo ci sono i testimoni a quello che è successo, poi dopo vedremo cosa accadrà. Però scusa, realtà, dal video sì, scusami se ti corre, io video guardo. A me interessa relativamente. Ah, ecco, perché è successo qualcosa dopo? È successo. A me interessa quello che ho provato io e quello che è successo. Poi del video loro non mi interessa, anzi mi farebbe molto piacere, come avevano detto, di non metterlo in onda, cosa che mi hanno detto e che poi invece non hanno fatto e hanno messo in onda senza autorizzazione. Detto questo, se una donna, poi voi siete uomini, ho sentito anche la frase di Squitieri prima che è veramente agghiacciante, siamo ormai arrivati a una deriva folle, se una donna viene presa alle spalle e fermata con l'inganno per dare la possibilità a un'altra persona che arriva dal dietro velocemente, di nascosto, prendendola alle spalle, oltretutto in un vestito, diciamo un posto di mezzo nudo, mezzo vestito, ma comunque in un modo non normale per la stagione, ti ferma contro una porta, mette una mano per non farti aprire la porta, ti si struscia dietro, mima un atto sessuale, poi dopo, quando tu finalmente riesci a entrare, scappa via senza dirti né che è stato uno scherzo né altro, davanti alla RAI, in un momento in cui sì. io ovviamente facile bersaglio perché io vado a quell'ora a lavorare, ma poi ditemi voi, uno si può però spaventare, uno no. E che è successo dentro poi? Successo che le persone che hanno assistito alla cosa hanno voluto chiamare giustamente la polizia, perché nessuno ha capito che era uno scherzo, e dato che i signori delle Iene non hanno detto né prima né durante né dopo che era uno scherzo e questa persona è scappata, si è pensato che ci fosse una persona squilibrata in giro per Milano. E ma tu ti sei sentita male? Quanto ti sei sentita male? Perché non significa niente quanto si è sentita male. Io mi sono purtroppo sentita poco bene dopo, ma questo è un problema mio. Io, no, vabbè, ma siccome ne stiamo parlando, ho avuto un momento di ansia, mi sono spaventata, non sono stata bene. Ma questo poi si risolve, si è risolto. Non è questo il però punto. Scusa, dalle immagini si vede una cosa che è durata pochi Guarda, secondi. La percezione di quanto è durata, io non te lo so dire. Non ti so dire se l'immagine è stata tagliata, modificata, perché non ho percezione del tempo. Io ho la percezione di una persona dietro che mi arriva dietro la schiena, che mi spinge, che si struscia un po', non mi fa uscire. Io cerco di entrare nella porta, mette la mano sulla porta, e quella è una porta che si tira verso l'esterno, quindi non riesco a aprirla. E che poi io, guardandolo, ho pensato un maniaco che vuole fare qualcosa, perché io purtroppo lo scherzo delle Iene non lo conoscevo, e quindi chiaramente mi sono spaventata. Ma non hai ricevuto nessuna telefonata? Scusa, è soggettivo. Adesso ci permettiamo anche di dire quanto si deve fare. Quello no, perché se uno si è spaventato, sì, punto. Ma è la deriva della televisione sulla quale... Ma le scuse a te le Iene, le scuse te l'hanno fatte, chiede Parenzo? Davide Parenti, qualcuno di questi delle Iene. Ho visto che hanno fatto le scuse attraverso un importante quotidiano, che è il Corriere della Sera, però la cosa peggiore che hanno fatto è stata quella di mettere il video dove cercano in qualche modo di dire che io me lo sono inventata. Ecco, questo mi è sembrato un affronto nell'affronto. Non ti fanno ridere le Iene, insomma, non ti fanno ridere? No. A me mi hanno sempre fatto molto ridere, trovo che abbiano fatto sempre un ottimo programma, e molte volte le ho viste. Lucci era un mio carissimo amico che lavorava al TG3 15 anni fa, ma detto questo scherzo non lo conoscevo. Ma che scherzo era poi? Non so che scherzo sia, chiedetemelo voi, perché qualcuno lo conosce, perché pare che l'abbiano già fatto. Sì, ma cos'era? Mandare io non l'ho visto, chiedo scusa, chiedo venia. Ce n'è un altro molto divertente, dove arrivano tutti questi falsi ultras in genere e circondano il malcapitato ospite andandogli addosso e proprio urlandogli delle cose. In questo caso chi forse lì hai più la percezione dello scherzo. Ma mica tanto, quando sei circondato da questi veri ultras con la faccia cattivissima. Io quello non l'ho visto, quindi non ti so dire. Guarda, ne hanno fatto uno, non mi ricordo a chi, è una bellissima presentatrice televisiva, l'hanno circondata. Se una persona si spaventa, può avere una bottiglia in mano che gli può cadere, possono andare dei vetri addosso. Se tu non puoi andare, ma tu hai avuto paura che ti fosse di avere un infarto, una cosa di questo tipo? No, io ho avuto paura al momento di essere aggredita da uno squilibrato che aspettava un personaggio pubblico, che potevo essere io, Marco Civoli, un altro, davanti alla RAI, che entrava a quell'ora, e a aggredirlo, non so a che scopo. Quindi i tempi che corrono, se permetti, essendo in un posto dove ero riconoscibile, mi sono spaventata, ero da sola. Poi questi gesti che faceva, sinceramente, e loro hanno infierito da ieri pubblicando quel video e dicendo ma non è successo niente. Guarda, ognuno ha la sua coscienza. Io mi preoccupo, visto che lavoro in televisione da un po' di anni, della deriva della televisione. Perché se questo che vogliamo, scusami, domani vado a fingere una rapina per vedere se si spaventa il gioielliere, poi succede quello che è successo a Torino 30 anni fa. Un attimo solo, torniamo. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Sei ancora a casa, Emo? Vabbè, caro Parenzo, abbiamo accertato che a Paola Ferrari non piacciono questi scherzi, alcuni scherzi delle Iene, tra cui questo disturbatore che arriva lì, com'è che si chiama poi, Curti, com'è che si chiama? No, come si chiama, francamente, sulle mutande non lo so. Oh, no, non mi ricordo. Comunque, un disturbatore che arriva là, rompe le balle. È il disturbatore. Nella stanza. Lei russa e non si sveglia mai, lei russa e sogna i fatti suoi. mi nascondo con... Allora Paolo, io non ho capito una cosa. Alla fine ti aspetti delle scuse ufficiali? Ti aspetti che ti chiami qualcuno di media? Io mi aspetto, guarda, io mi aspetto, le scuse sarebbe da signore, ufficiale, una telefonata, le scuse. Signor Parenti, se uno è un signore lo fa, se uno non... Va bene Parenti, non è che ti devi chiamare con Falonieri, no? Per l'amor del cielo, chi ha mandato queste persone? E poi secondo me invece, ti ripeto, anche se a voi vedo che l'argomento vi annoia molto, però che una riflessione su dove va la televisione. Ma da quello fanno Sandra Milo, il figlio Ciro, perché la prossima volta non facciamo uno scherzo in diretta a una persona e diciamo che il figlio è in ospedale, vediamo come reagisce. Cioè, scusatemi, io sono di un'altra televisione, forse sono un po' anziana, come dice Gene Gnocchi, ma continuo a pensarla così, fortemente così. E se un uomo in qualsiasi modo aggredisce, tocca una donna, fa molto molto arrabbiare. Ma lo scopo è quello di farti arrabbiare, cioè lo scopo è proprio quello. Guarda, cioè lo scopo è di farti imbestialire, forse anche di farti sentire male, secondo me. Guarda, beh, mi auguro di no, mi auguro di no per Mediaset e per l'azienda. No, però scusa, secondo me, conoscendo... Certo, per far sentire male. Beh, ma non per sentir male, per testarne le reazioni. Per provocare sicuro, una reazione forte, più forte la reazione. La reazione non deve essere... Allora, mi va bene che tu mi fai una domanda forte, mi va bene che mi metti in difficoltà, come fanno coi politici, provocare uno scherzo per far star male una persona sarebbe di una gravità inaudita. Guarda, a me hanno fatto scherzi a parte con la complicità del signor Cruciani, dicono, e non è stato divertente quello che mi hanno raccontato. È stato divertente, sì. E a un certo punto lo dicono, ripeto, sì, è andato via correndo dall'altra parte della strada. Tutti noi abbiamo pensato a un'aggressione o comunque a una persona frustrata con dei problemi che se ne andava scappando, non è arrivato dentro dicendo Paolo... Comunque guarda Paolo, l'obiettivo, a parte mi dice qualcuno che oggi sei andato dall'avvocato in ogni caso. È vero. Ma a che fare? Assolutamente, te lo confermo. A che fare? Per sapere se ci sono gli estremi per la privacy, per evitare che continuino a mettere le mie immagini, possono fare... Cioè togliete quel video lì. E nella puntata che andrà in onda delle Iene non possono ancora continuare a mettere quel momento che per me è stato un momento comunque che mi ha portato... Questo scherzo non va mandato, nella prima puntata delle Iene non va mandato questo scherzo. Non va mandato perché c'è comunque un limite nella privacy. Senti, questo se lo faranno ognuno alla sua coscienza, miei cari. Voi che avete una grande coscienza lo sapete. Ma no, ma noi... io, guarda, sono avvisati alle Iene, guarda, allora. Guarda Paolo, il punto è molto semplice. Secondo me l'obiettivo è proprio quello di far incazzare le persone, farle in qualche modo provocarne delle reazioni forti, per cui secondo me poi uno lo può fare. Ti ripeto, la reazione va bene, tu mi dici una cosa, ma non è prevedibile, non è prevedibile quello che succede. Certo, ma allora ti dicevo, qual è la deriva? La prossima volta telefoniamo in diretta e diciamo che una persona, un familiare è in ospedale, vediamo che reazione uno ha. Ma siamo veramente impazziti. Cioè, secondo te le Iene stanno esagerando in questa... Me si esagera se la televisione va in questo senso. In generale senso dovrebbero... Io spero in una riflessione. E poi, detto questo, vedremo quello che accade. Ma in che senso hanno messo le mani addosso? Però questo donne, è importante. Fammelo dire. Tanta solidarietà delle donne, anche adesso, 2 secondi fa, mentre ho il telefono con voi. E perché alle donne non piacciono queste cose. Però in questo caso donne e uomini uno scherzo. Non è una violenza sulla donna, perché la violenza sulla donna è una cosa molto più grave. E comunque, e non confondiamo... Ma che t'ha toccato questo qua? Si strusciava, sì. È una aggressione, comunque, vabbè, perché l'aggressione non è solo picchiare, ma anche l'aggressione... addosso a una persona facendole fare una cosa che lei non vuole fare. Senti, c'è una polemica alla RAI. Scusa, voglio parlare di un'altra cosa. Ma innanzitutto sei svenuta e sotto shock o no? Perché sui giornali questo c'era scritto: sotto shock e svenuta, tanto per chiudere questo argomento. Non è mai carino parlare delle situazioni di salute delle persone. Potete chiedere al medico della RAI che sa quello che è successo. Beh, sei svenuta, si può dire che sei svenuta o no? Si può dire che sei svenuta o no? Sì, ma queste sono cose che sulle quali non mi interessa speculare. La televisione delle lacrime e di fare la poveretta, che deve avere la pietà. No, ma non è la poveretta. Però ha ragione, se uno ti si struscia in mutande, francamente uno si può... indubbiamente ragazzi, un po'... Ma questo qua sono gli scherzi che fanno. Se uno ma non ho capito, però lei dice però c'è un limite, no? Se uno in mutande si struscia davanti, quello un po', un minimo, Paola, uno... un gesto sessuale mezzo nudo gennaio, magari uno può anche spaventarsi, poi ti ripeto, le reazioni sono personali. vediamo il bicchiere mezzo pieno, facciamo una riflessione su quello che è accaduto. No, la riflessione no, no, mi penso sento male. Questo è interessante, come... poi se io sono svenuta, quello che è successo lo fa. Senti una cosa, ma ti ha fatto piacere vedere due campioni delle telecronache calcistiche, ospiti della RAI? Si dà il caso che questi campioni delle telecronache calcistiche fossero di una televisione concorrente come Sky. Sì, io so benissimo ma è una vergogna, cioè Caressa e Bergomi ospiti di Fazio. Vergogna mi sembra una parola troppo forte, mi sembra inopportuno, è già successo più volte, quindi non mi scandalizzo più, visto che a tanti piace segnalare la mia rivalità con Ilaria D'Amico. Ilaria D'Amico è stata invitata lo scorso anno al Festival di Sanremo, mentre noi continuiamo a vincere perché la Domenica Sportiva è leader degli ascolti ancora da 3 anni, ancora da 4 mesi, ancora abbiamo vinto. Cioè dovevano invitare te a Sanremo? Bene. No, non me, perché me? No, per dire. No. Non trovo. Però non la D'Amico. Concorrenza, però poi il nostro CDR si è espresso, mi sembra. Vabbè, adesso CDR chi se ne frega. Però la cosa che voglio dirti è questa, cioè se due diventano dei personaggi che vanno al di là della televisione in cui lavorano, perché non possono essere ospiti di un grande programma di attualità? Tutti possono essere ospiti, noi lavoriamo per la stessa azienda, penso che ci dovrebbe essere un occhio di riguardo per un discorso aziendale più forte di tutela delle persone che lavorano all'interno. È una cosa di cattivo gusto? No, di squadra, lei dice. Lo trovo di che poteva essere assolutamente evitabile. Assolutamente evitabile, anche perché è una cosa ripetuta, non è la prima cosa che avviene da parte di Fazio, e credo che questo abbia in modo particolare... Ma perché? Che c'è sotto? Perché invitano queste persone, secondo te? Perché invitano, per esempio, Caressa e Bergomi? Ho sono delle mie idee, ma... Dimmene una, che ne so. No. Ci mancherebbe altro, ognuno fa le scelte che vuole, poi... Grazie a Dio la vita è una scelta. Ma è un danno per l'azienda secondo te, Paolo, o no? No, non è un danno, perché grazie al cielo le trasmissioni di Rai Sport vanno benissimo. Comunque il twerking non è un gesto sessuale. Ciao, ci sentiamo alle 19:15. Ciao. Ma ti pare normale che nemmeno Cabobo, cioè uno che ha preso a picconate tre persone a Milano, nemmeno lui può stare in carcere? No, perché ci sono le perizie, eccetera, hanno detto che la sua situazione è incompatibile. Sì, non è che scorrazza per le strade, però. Cioè, è in una struttura sanitaria per farsi curare. Perché è stato giudicato incapace di intendere di volere. No, questo no, c'è stata una perizia che dice, poi ci sarà una decisione, questa perizia dice che le sue condizioni sono incompatibili con il carcere. Dunque, già hai detto una stupidaggine perché non hai letto niente. Esistono delle... hai parlato con i periti? Cioè stai contestando questa decisione? Non capisco. Non c'è una decisione ancora. Quindi lui deve stare in galera. Cioè, qualora galera, i periti dimostrassero che lui non è compatibile, lui comunque deve stare in galera. O in galera o nella sua patria di origine. Questa è la mia opinione. Signor Cabobo. I periti servono. Nel nostro sistema ci sono anche questi, purtroppo. Prenda atto che ormai è tutto finito. Mi stupisce il signor Formigoni, il quale, ex presidente della Regione Lombardia, il quale dice in maniera piuttosto bizzarra che con le liste bloccate ci saranno tante Minetti. Ma scusa, ma mi sembra di ricordare che lui lo dice. Nella lista bloccata era la lista del presidente, nel listino del presidente Formigoni. Poi lui ha sempre detto non l'ho scelta io, l'ha scelto Don Berzè, eccetera eccetera. Ma di che parliamo? Era la lista Formigoni, cioè la lista del presidente, comunque col suo avallo. È entrata proprio perché c'era il listino bloccato. Appunto. Quindi per questo io mi sono battuto per eliminare il listino bloccato. Non voglio che si torni a listini bloccati a livello nazionale. Se no le liste saranno piene di Minetti da una parte e di Minetti dall'altra. Perché saranno i segretari di partito a fare le liste. Che è incredibile, cioè uno accetta per volontà del capo la candidatura della Minetti e poi dice che con le liste bloccate che c'erano alla Regione Lombardia entreranno tante Minetti. una cosa pazzesca. Come si può cambiare idea in pochi mesi rispetto a tante cose? È sorprendente in alcuni casi. Venuta nel mio spazio sotto salice, salice, non stare lì così. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La proposta di Renzi, ballottaggio di coalizione contro le larghe intese, no modifiche, dice o salta tutto, sull'incontro con Berlusconi, critiche strumentali. Critiche della minoranza del PD, Cuperlo, proposta non convincente, ci sono dubbi di costituzionalità, alzare la soglia del premio di maggioranza al 40%. La riforma annunciata da Renzi ha avuto il via libera di Silvio Berlusconi, fissata per il Cavaliere il 10 aprile l'udienza sull'affidamento in prova ai servizi sociali. Apertura del nuovo centrodestra che però promette battaglia in Parlamento sulle preferenze, Grillo da Renzi e dal Cavaliere un pregiudicatellum. Si sposta verso il sud l'ondata di maltempo che ha provocato una vittima in Liguria, nel Modenese un uomo è disperso, inghiottito da un canale, centinaia gli sfollati. Folla da Cerra per i funerali del vigile che ha sfidato da solo l'ecomafia, ucciso da un tumore, ha sempre lottato contro gli sversamenti nella terra dei fuochi. È morto Claudio Abbado, uno dei più grandi direttori d'orchestra di sempre, impegnato contro Italia e la cultura, ad agosto era stato nominato senatore a vita. Poco sentirete la voce di un prete, cari amici della Zanzara, la voce di un prete, il quale si scaglia, Don De Capitani, un prete qui vicino, a nord, a Bergamo, caro Parenzo, che si scaglia contro Renzi, contro Berlusconi, contro questo accordo, e un mezzo squinternato. È un ultras, io direi. Un mezzo squinternato. Io direi che è un ultras, quello. Però... Se sentite le parole, non sono poi così lontane da altri che magari, no, le parlano del pregiudicato Berlusconi. Che magari non fanno i preti, però, ecco. No, diciamo. Ma oltre che non fare i preti, magari sono un po' più, no, un po' più moderati, parlano, non si può far entrare un pregiudicato, eccetera, eccetera. Don De Capitani. Come hai potuto, caro Renzi, sì, come hai potuto incontrarti con un pregiudicato? Come potevi farlo? E non dire che con il porco d'Arcore tutti hanno collaborato, anche il PD, fino all'altro ieri. Ma che c'entra? E tu hai voluto confrontarti con quel coso maledetto? Che anche tu sii maledetto, che tu vada all'inferno insieme con lui. Ammetto i miei limiti di comprendonio nei riguardi dell'attuale politica italiana, che sembra un coacervo di cornuti e una ammucchiata di puttanieri. Il prete, linguaggio. Don De Capitani, Don De Capitani. Linguaggio curiale. Siamo qui, e Giuseppe da Alessandria. Buonasera. Buonasera a tutti. Senta, visto che va di moda a chiedere le dimissioni, sì, io le chiederei a lei le dimissioni. E per quale motivo, scusi? Perché, scusi, lei che è così bravo a rispondere a tutti, a tutte le persone a cui vuole rispondere, mi chiedo perché ha fatto vomitare quelle cazzate in mani che ha detto settimana scorsa il regista, abbia pazienza, mi sfugge il nome. Squitieri. Allora? Ecco, scusi, no, allora, scusi, cosa ci voleva a interrompere la comunicazione e fine a trasmissione? No, a ridaglie con sta storia, ma Giuseppe. Ridaglie? Ma che come cosa? Ridaglie? Ma che interrompere cosa? Ma se uno, a parte che se uno le spara grossi non lo interrompo per niente, primo. Ma perché? Ma scusi, lei perché non lo interrompo? Non lo interrompo, no? Scusi, gli ho chiesto, ma guardi che le sue figlie erano... Ma perché dobbiamo tornare di nuovo su questa storia? Cioè, non è questione di tornare sulla storia, abbia pazienza, dico solo, la vostra è una bella trasmissione, a volte fa ridere, a volte no. Ma non è bella, è quella che è, non è bella, brutta, è quella che è, ci sta. Ma che Squitieri è una trasmissione in cui... Una trasmissione in cui un regista può anche dire che alle figlie di 10, 12, 13 anni consigliava di scopare, consigliava di non essere più vergini. Ma questo non è vero, ma chi è quel padre che consiglia, ma lui che lui di 10 anni purtroppo di scopare? Ma Cruciani, ma che cazzo stiamo dicendo? Oh, ma l'ha detto lui, l'ha detto, mica l'ho detto io, l'ha detto lui. E siccome dice diceva delle cazzate in mani, ma veramente cazzate in mani, secondo me lei, che ripeto, è così bravo a rispondere quando vuole. Che dovevo fare? Avanti, ecco un altro insegnante, ecco un altro professore, no, cosa no. devo fare? Cosa devo fare? Professore, devo fare cosa devo fare? Mettere giù il telefono. Mettere giù il telefono, sì. Cazzate, che le spari in casa sua. Ma no, le spari qua le cazzate, non si preoccupi, le spari qua come le spariamo tutti, le spara lei, le sparo io, le sparo gli altri. Ma siamo qua tutti e fa piacere a tutti ogni tanto sparare qualche cazzata. E allora? Però magari certe cazzate si può evitare di spararle. Tant'è che ne dirò, ultima cosa, poi vi lascio alla vostra trasmissione. Allora? Io ho immaginato forse che avesse bisogno di pubblicità questo individuo. Allora, se, ma quale pubblicità? Ma che gliene frega? Ma uno bisogno di pubblicità. Ma uno come Squitieri, pubblicità, dai, su, ma di che parliamo, dai? Scusi, se aveva bisogno di pubblicità ci siete riusciti benissimo. Se no, veramente, cioè, non ha senso. Io se fossi stato in lei, ripeto, ma giusto per parlare, intendiamoci bene, lei avrebbe potuto fare click e mettere giù il telefono. Vabbè, arrivederci. Roberto D'Ancona. Buonasera, Cruciani. Allora, io volevo innanzitutto replicare alla signora Ferrari, visto che anch'io andrò a parlare con il mio avvocato per denunciarla, appunto, poiché la sera, quando guardando la TV, vado sulla sua trasmissione, vedendo il suo viso così illuminato e simile a un mostro con questo trucco un po' forte, anche a me viene un tuffo al cuore. E dunque che cosa vuole fare? Vuole denunciare la Ferrari perché si spaventa ogni volta? Sì. Intraprenderò una via legale anch'io, perché appunto quando metto sul suo canale, vedo il suo programma, questo tuffo al cuore. Che tuffa al cuore. No, ma io dico adesso un po'. Una risata fa bene anche alla vita. Poi la signora Ferrari, se lei ha riso poco, però è permalosa. Ha preso un po' paura perché è arrivato il twircatore là, come diavolo si chiama, quello che fa che si struscia un po' addosso. Bastava che guardasse qualche puntata, appunto, delle Iene, e il twircatore sicuramente l'avrebbe riconosciuto. Va bene, Gianfranco da Roma, Gianfranco, avanti, Gianfranco. Mi dispiace di dover parlare ancora della Ferrari, che stiamo dando troppa pubblicità a una persona che probabilmente non l'hanno vista. Però tutti quanti, quelli che hanno seguito questa vicenda, hanno visto il video su internet della Ferrari e del twercatore, o come cavolo si chiama, delle Iene. Non c'è stato nulla di strano, nulla di violento, nulla potesse far sentire male la Ferrari. Ma è quello che ho visto anch'io, cioè ho visto questo qua che sì, è durato pochi secondi, tutto quanto. Una cosa ridicola, che poi lei non l'ha neanche segnato di attenzione, perché lei dall'alto della sua posizione. Aspetti che si sente poco, un attimo. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, no, ma poi invece s'appoggia. Cruciani, lei sta esagerando, lei ha perso la brocca, lei ha perso la brocca. Raccontare del mitologico incontro tra Matteo Salvini, il leader della Lega Nord, e Striscia la Notizia. Sì, Striscia la Notizia, Staffelli col tapiro, per la figuraccia al Parlamento Europeo, con un parlamentare europeo che gli ha dato del fannullone. È vero che alla commissione di quel signore di sinistra, inutile e antipatico, non ho partecipato. Sono andato una volta, ci sono andato due volte, vista la schifezza che stavano elaborando, ho detto io preferisco andare a incontrare gli imprenditori veri. Io non voglio essere corresponsabile di un'Europa che ammazza la nostra gente. Oltretutto da parte di un tizio che dice la Lega è nazista, razzista, e io odio la Lega. Quindi se devo prendere lezioni da uno che mi dà del nazista... Ma questo è vero, però il signor Tarabellaglia ha dato alla Lega del nazista, movimento. No, sì, nazista anche lì, ha detto che sono nazisti, poi ha detto che si riferiva a Borghezio, eccetera. Comunque questo è, ragazzi, cioè, ha detto che li odio la Lega, così ha detto. Beh, a noi legittimo, no, però. Ho capito, questo è il collega parlamentare, ha detto che quello è un fannullone, ha detto che è un fannullone nazista, gli ha detto. Ho capito, ma è vero, prende in tasca quello che vuole la Lega 2.0, Quick Yang, mi pare che sia questo, diciamo, l'obiettivo del partito. Il tuo amico Good S. Hall, ecco, questa è una persona, cioè buon anno, è una buon persona anno. Davvero spiacevole, ha detto di Lerner, sì, ho visto, ho letto tutto. Non prendo certo lezioni da gente come Lerner, quell'ebreo è un ebreo perché si vanta di essere ebreo. Ci racconti di quello che fanno i palestinesi, non mi pare si facciano tanti problemi con loro, capito? questo ha detto? Che cosa c'è di spiacevole? Ha detto che è ebreo, ma in che senso l'ha detto? In senso dispregiativo? Beh, mi sembra abbastanza evidente. Cioè ha detto no, ebreo e dunque... Ha ragione. No, mi sembra che l'ha messo in mezzo questa cosa dell'ebreo che non c'entra niente, certamente. Non si è dimostrato nulla. Quello che è, una persona razzista, è l'ennesimo episodio. Perché non si è messo allora, ha fatto un'altra pagliacciata? Perché non si è messo il naso ad unco, ad esempio, lavorando sullo storico stereotipo? Perché non ha buttato del denaro nel Parlamento? Perché non si è già tinto la faccia di nero in spregio agli immigrati? Dove arriverà Buonanno ormai? Dove arriverà? Allora Gianfranco stava parlando con noi. No, scusa, non vi tolgo tempo perché per la no, non è questione, non è questione di togliere tempo. Un attimo solo, fermo lì. Sì. Buon anno? Sì. Sei davvero un razzista, guarda, ne hai fatto un'altra delle tue. Come? Sei davvero un razzista. Cosa ho combinato? Me ne hai fatta un'altra delle tue, questa porcheria che hai detto su Gad Lerner. Ma non volevo attaccare cosa? Ancora una volta, dai, e la prossima cos'è allora? Cosa farai la prossima volta in Parlamento? Ti metti la chippa in te, lo zucchetto in testa? E dove sei? Certo che siamo in diretta. Ah, vabbè, salutami Dora Cruciani. Qua, ciao Gianluca. Grande amico, sono un grande suo estimatore. Ciao Gianluca, ciao. Non ciao. È che gli fai allora, no, il problema è dovresti questo chiedere qua. Scusa anzitutto. Il problema è questo. Prima. Allora, io ho difeso questa cosa qua dicendo che tu non ti sei rivolto in maniera sprezzante nei confronti di Lerner. Dimmi come hai ti sei rivolto. Hai ragione, perfettamente ragione. Cioè, tu perché hai detto quell'ebreo allora? Scusa, così per no, gioco. Cioè, scusa, se uno dice cioè uno della fede cristiana dice cristiano, uno della fede buddista su Buddha buddista. Ho detto ebreo, ma non per io non ce l'ho con gli ebrei, anzi ti devo dire, un giornalista che mi piace molto è Clemente Mimù. Che è ebreo. Una persona che è ebreo, una persona che stimo, che ho avuto è Parenzo, in Parlamento, è Parenzo. Ma che stai. Cos'è uno? Perché perché scusami, qui c'è uno, io ti conosco e so benissimo che non sei razzista nei confronti degli ebrei. Ma guarda, lui è razzista, così. Punto. Lui no, è un razzista, posso dire, punto. Sinceramente, a me Gard Lerner non piace, lo trovo fazioso, e quello che nell'intervista c'è scritto, che ho dichiarato, nella sostanza è quello che penso, ma poteva essere, ripeto, ebreo, italiano. Ma perché hai guarda caso, perché hai sottolineato quella cosa? Perché sei spregevole, perché usi gli stereotipi, perché hai fatto. Mi piace, perché dovresti chiedere scusa e basta, dire ho fatto l'ennesima cazzata. No. L'ennesima. Aspetta Gianluca. Ma non c'è. Cioè, dovrebbe chiedere scusa a Lerner? Ma senza ombra di dubbio. Gianluca, vuoi chiedere ma senza scusa? Senza dubbio, no? Deve chiedere scusa. Ma deve chiedere scusa a tutti, non solo a Gadler. Vuoi chiedere scusa a Lerner, Gianluca? No, ma cioè io non ho detto niente di male contro, cioè ho dato una mia opinione su di lui, a me che sia ebreo o non ebreo non interessa. Ma invece ti interessa perché l'hai detto, perché ma lo hai sottolineato. Ma è un gioco, tutto per scherzo. Ma no, ma scusate, ma è una cosa, se uno dice questa parola, alla fine viene fuori un caos, cioè allora è come l'ora di omosessuale, appena uno dice omosessuale stai attento a quello che dici, cioè ma non è così. Cioè perché tu però hai detto... Nella mia vita io credo di aver dimostrato tante volte di non essere né razzista, di avere un pensiero mio. Però scusami... Dipingenti la faccia di nero. Vabbè, quello che c'è, quella è una provocazione politica, dai la smettila, è una provocazione politica. Non sapevo, va bene, è una provocazione politica. Per te è razzista. Dillo apertamente. Dunque, Buonanno è una persona razzista, diglielo in faccia, diglielo. Ma in faccia, ma è un ultras, è un razzista. Ma no, va cacciato dal Parlamento, secondo me. Parenzo, davvero, va cacciato dal Parlamento, purtroppo l'hanno votato con un sistema bloccato. Tra l'altro, lui è capace di prendere anche molti, cioè è stato eletto con sistema bloccato. Ma queste schifoserie, non sono gli unici. La Le Pen, quanti voti prende al Parlamento europeo? È una razzista, si potrà dire che è una razzista o no? Si può dire almeno questo o no? No, non si allora, può dire. Io voglio... sono razzista. Cioè, razzismo vuol dire difendere il territorio, pensare che prima vengono gli italiani degli altri, sono usare razzista. Gli stereotipi, accusare le altre persone allora, in base all'appartenenza religiosa, etichettare le persone in base al credo religioso, a casa mia è razzismo, ma magari casa mia è però scusami, è sbagliato. Ma il mio era un discorso diverso. Io volevo esplicitare un esempio che poi c'era sull'intervista, cioè di dire questione che c'è tra Israele e Palestina, ma cosa c'entra? Ma fammi finire, mi hai fatto una domanda. Ma che c'entra l'appartenenza religiosa? No, questo dove è da decenni ci sono delle situazioni complicatissime, dici, sono... e anche dove sono morte tantissime persone, no? E ho fatto un esempio di già per dire, cioè non è che poi in tutti i luoghi ci sono delle situazioni, certo, dove non c'è la ragione solo da una parte e il torto tutto da un'altra. Ma cosa c'entra questo? No? È diventato questo anche politologo internazionale, però, è diventato anche esperto di Medio Oriente, è diventato adesso improvvisamente Buonanno mi racconta il Medio Oriente, non che ma so no, io, Lucio Caracciolo di Limes, Buonanno, no? Uno che si tinge la faccia di nero, uno che mette dei cassonetti, però, delle immondizie. Intanto l'ho fatto in maniera elegante per esplicitare una situazione, scusami, dove in Italia oggi sinceramente per me uno che è un po' più scuro in faccia ha dei diritti superiori agli italiani. Scusami, però lanciare scusami, Gianluca, le banane dire... alla Kieng? No, io non ho lanciato banane. Non ho mai lanciato non le banane. No, io non ho quelle io che la... lanciano le bucce sì, di banane alla Kieng, o la chiamano detto, orango, sì, per me è razzismo. A casa io mia è razzismo. La Kieng per me è diventato ministro perché è esclusivamente di colore. E poteva essere rosso, giallo e verde, non mi interessa, ma hanno fatto questa operazione per un'operazione di specchietto per le allodole per far vedere che era un governo evoluto. Nella realtà è un ministro che ha fatto, secondo me, non giudicabile come quando si andava a scuola, che ha tirato fuori la questione dello Ius Soli, che secondo me è demenziale, e che l'unica cosa positiva che poteva fare era andare al suo paese di origine in Congo, cosa che ha fatto per salvare le questioni degli italiani delle e loro adozioni, e non ce l'ha fatta. Questo è quello che ho detto. Oggi ha detto la Kieng un'altra cosa, ha detto che è contro i migranti, poi mandava i soldi in Tanzania e alcuni dirigenti prendevano la laurea in Albania, cioè abbiamo un po' sfottuto oggi. Va bene, cioè può dire lei farà le sue battute, però se lei fa le sue battute sono tutti che possono stare lì e dire signor sì signore. Se invece si dicono delle cose e le diciamo, le dico io nei suoi confronti, allora è razzismo. Però scusa Gianluca, io questa cosa non ci sto. Gianluca, la laurea in Albania l'ha presa, non era una battuta. Io l'ho dichiarato un ministro, un oggetto d'arredamento in ebano, perché qualsiasi posto lo metti, il suo finale è sempre che è un oggetto d'arredamento, cioè non serve a niente se non a far vedere in diciamo così ornamentale. In ebano, tra l'altro, hai specificato in ebano. In ebano, sì, in ebano, sì, in ebano che è anche più pregiato. Scusa un attimo, Gianluca, però ti devo dire una cosa. Allora, la cosa dell'ebreo, mentre le battute, poi su questo io e Parenzo la pensiamo in maniera diversa. Ora, cioè, anche la trovo di pessimo gusto. Si fa politica anche con questo. Anche con si fa politica. Non è razzismo. Io conosco Gianluca Buonanno, non è una persona razzista. Bene. Basta, tutti, secondo me. Secondo tutti me rifiutano sì. L'etichetta di razzista, certo. Allora, il problema però è un altro. Certo. La questione dell'ebreo è leggermente diversa. Tu però non vuoi chiedere scusa a Lerner, è vero? Ma perché devo chiedere scusa? Ma di che cosa? Ho espresso delle opinioni. Cioè, hai detto anche con Tirchio pieno di quattrini che fa il comunista. Perché non posso dirlo? Ma perché Tirchio? Scusa, spiegami perché sarebbe Tirchio, perché non ho capito bene. Che ne sai tu? Ma cioè, no, perché tutti, cioè, in quel mondo della televisione, dalla Littizzetto a Lerner, no, ma perché Tirchio? Tutti, guarda che Cruciani è Tirchio come non mai, Posso spiegare anche questo? Allora, Tirchio perché? Mi sembra due settimane fa, io compro sempre il settimanale Chi, perché mi piace Alfonso Signorini come direttore e il settimanale mi diverte. Non come uomo. No, lui è dichiaratamente omosessuale, ma io lo stimo e mi piace come direttore, e quindi anche in questo caso dimostro che non me ne frega niente se uno è eterosessuale o omosessuale, secondo me se uno è in gamba, vabbè. E lui non fa mai la vittima e questo mi piace molto. Dopodiché, nel suo Chi, siccome era stato attaccato perché era andato a Cortina, era andata via la luce perché nevicava. Vabbè, ha messo le foto di tutti gli altri che sono andati a Cortina. Bravo, e siccome ha fatto un ragionamento che a me è piaciuto molto, cioè ha fatto l'esempio di Santoro che era alle Maldive. Sì, ma Tirchio, perché hai detto Tirchio? Lerner, fammi finire, Lerner invece ha pubblicato delle fotografie dove era ovviamente ospite di... De Benedetti praticamente con scritto si fa le vacanze pagate dagli altri, giustamente perché lui è attaccato e dice io le mie vacanze me le pago da solo, ecco perché ha detto Tirchio. Ah, per quello non è che c'è riferimento perché a cosa. Praticamente il signorino ha scritto questi fanno le vacanze a però strappo, scusa mi pare sta camminando su ebreo, a parte che la questione dei palestinesi con la questione degli extracomunitari c'entra su poco, un vetro, però la questione dell'ebreo bagnato. So che ha fatto incazzare moltissimo anche la Lega, cioè diciamo la verità, ecco, da quello che so ha fatto incazzare moltissimo la Lega, è vero o no? Ma io ho avuto solo un colloquio con il mio capogruppo Giorgetti, che è una persona che stimo molto, una persona molto in gamba. Ma è vero o no che c'è una specie di mandato per tenerti un po' buono da parte di Giorgetti, così mi dicono, così mi riferiscono fonti. Ah, sì? Ma non so, a me non è giunto nulla, però se mi giunge qualcosa te lo dirò. Vabbè, comunque non c'è nulla. Scusa, ma non penso di aver offeso nessuno. No. Se qualcuno si è sentito offeso, me ne dispiace. Direi. Io non volevo offendere nessuno. Beh, tu hai detto quell'ebreo. Non prendo lezioni da gente come Lerner. Quell'ebreo. Quando uno dice quell'ebreo, se tu confermi l'espressione quell'ebreo, è come dire quel coglione. È la stessa cosa. Cioè, ti ripeto, io ho massima stima di persone. Come ad esempio Clemente Mimun. Cioè, stimi Mimun e non Lerner. Appunto, la sostanza è quella. Se uno fosse tedesco e l'altro olandese è la stessa cosa. E giustamente per evidenziarlo gli hai detto così. Giustamente per evidenziare la tua disistima hai detto così. Ti dico anche di più. È indifendibile. Ti dico anche di più anche se devo fare la pubblicità all'altra radio. È indifendibile. Mentre 5 minuti prima che mi chiamasse il giornalista, sì, stavo sentendo Radio Monte Carlo che c'è una... trasmissione, sì, dove c'è Lerner e Feltri. Sì, come no, certo. E per l'ennesima volta avevano Lerner attaccato a corta con cose anche strampalate, sì, per cui già mi era venuto ancora una volta il nervoso, perché parlano sempre di una certa parte, non parlano dell'altra. Ah, ti sei innervosito per quello che diceva sul... E allora mi è venuto ancora più nervoso, perché dico, ma cavolo, ma parla di Renzi che è stato diciamo così condannato. Ad esempio, una cosa che non dice nessuno, che ho detto anche nell'intervista, scusate, Renzi... Vabbè, la Corte dei Conti, dai, sì, vabbè. No, vabbè, la Corte dei Conti, ma che cosa ha fatto? Scusa, la Corte dei però Conti... Adesso... No, Gianluca, non c'entra niente. Quale sarà la prossima gaffe? Così la anticipiamo. No, qual è la prossima? No, ma la prossima? No, dico la prossima gaffe, quale sarà? Sui cinesi, ad esempio. Comunque, cosa possiamo dire sui cinesi? Ha detto che non c'è niente, non ha nulla di cui pentirsi. Non c'è niente. Ma no, scusa, cosa devo dire? Che c'è qualcosa? Se dovessi dire, lo pensassi, lo direi. Chissà, perché tutti quelli che l'hanno letto l'hanno giudicato in altro modo, diciamo. Comunque, poi se è interessato, si sente offeso, per danno erariale, scusa. Cioè, per diversi soldi, tanti ma quello soldi, è Renzi, no? Ma che c'entra con Lerner? Adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Ma no, ma lascia perdere, ti sto dicendo, no, che Lerner però parla sempre e cota e questo e quell'altro, però della mestiere, sua parte politica si dimentica sempre tutto. A me non piace quel giornalista, e se mai un giorno mi dovesse, dico ipoteticamente, potevi limitarti? Io mi rifiuto di andare alla sua trasmissione perché non mi piace. È molto difficile. Io che penso che ti inviti, molto sai, a meno però che prima, faccia... prima l'invitava i leghisti, anche Borghezio, anche Salvini, eccetera, l'invitava. Certo, perché è un democratico. Salvini l'ha sempre invitato, certo, perché è un democratico. Guarda caso, oggi sui giornali c'era che lui intervistava la Chieng, casualmente, no? Perché non può intervistare la Chieng. Ma Staglio e Olio. Perché non può intervistare la Chieng. Staglio e Olio. Staglio e Olio, cioè si mettono lì, poi uno attacca uno, allora uno tira sul morale all'altro, si parano, diciamo, a vicenda. Ecco l'altra gaffa, cioè le due minoranze, no, certo, ecco l'altra gaffa, perfetto. No, perché è arrivata, l'avevo annunciato. Perché, che ha detto? Che ha detto? Le due Staglio e Olio, allora, due minoranze, si intervistano da soli, no? La ministra. Perché non vai fino in fondo? C'è la ministra nera dell'ebreo. Certo, beh, questo ha detto. Come? Non ci arriva. No, dice che tu. Ma lo dice! Ma perché dice? Cosa, beh, Staglio e Olio. No, Staglio e Olio è una battuta, d'accordo. Sì, come in coppia, no? Qual è? Perché bisogna spiegare sempre tutto? Ha detto uno aiuta l'altro, no? Ha detto una cosa che viene dalla pancia. Siccome la sua pancia, purtroppo, produce molta aria, che alle volte ma non capito, quale bocca... sarebbe questa cosa della non cosa l'ho capito, non l'hai capita, cioè, ma che se perché cioè, l'ebreo razzisti, e la negra tra razzisti è non vi capite il l'ebreo linguaggio e la negra. Ma tra razzisti, ma non, non ha detto capite l'ebreo e la negra, si se la cantano e se la suonano da ma soli, ma non come ebreo e negra tutte... ah no, e come cosa attualmente oggi sul giornale c'erano loro due e Lerner che intervistava la Chieng. Cioè, se la cantano e se la suonano, qual è il punto? Appunto, quello ma che questo sta dicendo, sta dicendo questo. Ma perché se la cantano e se la suonano, spiegami. Perché in questa situazione uno si è sentito offeso e l'altro si sente perseguitato e risultato, allora uno fa giornalista e l'altro risponde e così. Il gatto e la volpe. Ti immagini tu a cena con Lerner e la Chieng allo stesso tavolo, Gianluca, sarebbe spettacolare. Ma gli va tutto per traverso ai due, giustamente. Sì. Tu a no, cena. Farei volentieri il cameriere. Come il cameriere? Sì, mi servirei io, vorrei vedere proprio le loro facce nel momento in cui vedono che il cameriere sono io. Secondo me non mangiano più niente. Vabbè, comunque non sei commissariato, no? No, io non so niente, se mi capita ve lo dico. Ma è possibile questa cosa che sei commissariato? T'hanno detto di stare un po' calmo o no? Calmo, se sto parlando con voi, non so, cioè... Ma infatti, ma di che stiamo parlando? Dai, su, ma comunque, di uscite... Io, guarda, ho massima stima di Giancarlo Giorgetti, che è il mio capogruppo, e mi ha dato delle buone, diciamo così... dei buoni consigli e... T'hanno detto lascia perdere gli ebrei, te l'hanno detto. Hanno detto lascia perdere le stupidaggini. No, cioè... No, mi ha detto fai attenzione come parli, perché poi puoi ingenerare delle situazioni che tu non vuoi e che qualcuno magari vuole strumentalizzare. Questo mi ha detto. Comunque nessun pentimento su questa cosa e nessuna scusa a Lerner. Ma no, pentimenti, ho già detto, io non c'ho niente contro gli ebrei. Contro gli ebrei, non devo chiedere scusa a Lerner. No, e Lerner, quello che penso di lui come giornalista, che è fazioso, quello che che è stato pubblicato, è quello che penso, ma è la mia opinione personale. Penserà che io sia un deputato mascalzone, delinquente. Dovresti chiedergli, guarda, fossi una persona civile, fossi una persona civile per bene, gli avresti già chiesto scusa e saresti tornato a Cuccia, saresti tornato tranquillamente a Cuccia, nella tua spelonca, a ragionare sul prossimo atto di razzismo. Ma perché devo chiedere? Intanto si è sentito giustamente offeso, hai detto delle cose indicibili, ora non chiedi neppure scusa e continui nella tua versione, peggiorando la situazione. Comunque ti avverto che Cabobo è uscito dal carcere, Ecco, bella un'altra scoperta, buono. Ha ammazzato tre persone, vabbè. Quanti... Mi piacerebbe sapere se il ministro è andato a trovarle, i familiari delle tre persone uccise. Perché non è che deve andare per forza, perché è nero, perché un nero ha ammazzato i bianchi, o il ministro dell'integrazione deve andare questo a trovare le famiglie. Questo vive nel Sudafrica, ancora prima di Mandela, questo qui, Tu vivi ancora nel Sudafrica prima di Mandela, capito? Cioè quello dell'apartheid, O nel Mississippi, dove c'erano gli autobus divisi. Chissà come si viveva, Gianluca, all'epoca, Dove? Nel Sudafrica dell'apartheid. No, ma io a parte tutto chiederei al ministro di ritornare in Congo, nel suo paese di origine, e cercare di risolvere il problema. Venisse a casa con gli italiani, con i bambini, io sarei il primo ad applaudirlo all'aeroporto. Vabbè, non è che può fare tutto lei, andare lì e pigliare e portare. Sì, ma non ha fatto niente. Non solo di quello, ditemi una cosa che vi chiedo, ditemi un provvedimento che è andato a buon fine della Chieng. No, questo ve lo dicono anche nel Partito Democratico, che non è successo nulla. Oggi un autorevole esponente del Partito Democratico mi ha detto: se al posto della Chieng ci fosse Touadi, che era un deputato della precedente legislatura, sarebbe stato tutto diverso. Va bene. Io condivido anche lui di colore, ma io Touadi lo stimo. Ciao Gianluca, a presto. Ciao Giovanni da Campobasso. Terribile. Sì, buonasera Cruciani. Buonasera. Il signor Scudieri ha detto una cosa santa, perché la femmina Squitieri, il signor Squitieri ha detto una cosa santa. Che ha detto? Ha detto quello che è la natura della donna. Certo, non ha detto andate a prostituirvi. Ha detto un'altra cosa diversa, perché la femminuccia, quando viene al mondo, che ha le sue prime mestruazioni della sua natura, è la mamma che glielo spiega. Però il signor Scudieri ha detto una cosa tra la pratica e la teoria. Cioè, non ho capito, scusi professore, mi spiega questa cosa tra la pratica e la teoria? La teoria è quella che tu spieghi. Il maestro che spiega alle figlie non ha detto che andate a prostituire, però ha detto che facendo sesso, certo, una ragazzina di 12-13 anni magari ha voluto intendere che si innamora di un ragazzo di 20 anni, come gli è successo a lui, pratica sesso e capisce la differenza tra la pratica ha detto un'altra cosa. Ha detto un'altra cosa. Genio ha figlie, intanto lei ha figlie? Questo genio qui in diretta ha figlie? Di quanti anni, scusi? Ecco, appunto, quanti anni? Sono nonno, figurati. Che bravo nonno. Lei direbbe che bravo nonnino. Che bravo nonnino. Parenzo, che bravo nonnino che sei. Che bravo nonnino che sei. Ma stai zitto, che tu non capisci niente della natura della donna, né tu né la Sant'Anghè. È arrivato questo. No, ma scusi un attimo. La Sant'Anghè non ha mai evidentemente fatto il sesso, non ha capito niente del sesso. In che senso, scusi? Perché dire non darla? Ma allora scusa, eliminiamo le donne sulla terra, ma come si fa? Lei parlava del valore della fedeltà, del valore della fedeltà. Il signor Pasquale Scudieri, guarda, parlava delle sue figlie, è un paradosso. Io permette che alle mie figlie posso dire questa via ci passa o questa via non ci passa. Ho capito, ma lui ha detto che le figlie dovevano perdere la verginità perché era una vergogna rimanere vergini. Oh, ragazzi! Esattamente, qual è il problema? La gente che ti telefona a Radio 24 alla Zanzara, che il signor Scudieri ha detto una cosa peccato, qual è? No, non ha detto una cosa peccaminosa, ha detto la verità, ha detto quello che è. Cioè, scusi, lei ha le sue figlie, lei ha avuto figlie? Sì, figlie. Ti sto dicendo che sono nonno. Sì, ho capito, che c'entra? Può essere nonno pure di un maschio. Certo. Allora, ha avuto figli e lei ha una figlia di 10 anni, direbbe: scusa, ma non ti vergogni di essere ancora vergine? Lei direbbe ma così. No, certo, non glielo dico in quel modo. Ah, appunto, vedi. Ma la donna, la ragazzina di 11-12 anni, non so, quando ha le prime mestruazioni, la mamma glielo spiega, no? Ma lui non ha detto questo. Dice, ma che mi sta succedendo? Sto perdendo sangue. No, invece la mamma glielo spiega in un modo diverso. È la natura della donna, va spiegato. Però il signor Pasquale spiegava alle figlie che doveva praticare, perché praticando si acquista esperienza. E lei è d'accordo con questa riflessione? Certo, sono d'accordo, perché è un'anomalia peccaminosa, è una cosa naturale. E da quando si può, scusi, da quando si può praticare secondo lei? Beh, questo non lo so, penso che la donna, una volta che ha avuto le sue mestruazioni, è donna, che può mettere dei figli al mondo, che può praticare, può fare sesso, qual è il problema? Va bene, Federico da Milano. Sì, buonasera. Buonasera. Io vabbè, capisco che non siete un servizio pubblico, che siete una radio privata, quindi per carità siete liberissimi di fare e dire quello che volete. Però a proposito di questo regista, io faccio una semplicissima riflessione psicologica. Se io le dico: guardi che le stanno rubando in casa, lei sa che è una cazzata, che non è vero, però io la costringo a pensare a questa cosa, che le stanno rubando in casa. Allo stesso modo, se lei pensa, come dirà, al mezzo su cui lei è seduto sulla radio, che la sentono milioni di persone, qualche squilibrato che si sentirà autorizzato dopo a fare qualche minchiata, lo trova. Sì. E quindi ci fosse solo un'unica persona che rimane vittima, perché magari c'è quello che si fa problemi, no, chissà se giusto, chissà che no, invece sente alla radio, però forse quello lì ha detto che... magari lo fa, e poi magari crea dei traumi e delle cose su delle bambine che poi magari le pagano i nani. Quindi un suggerimento spassionato da uno che non guardi, è del settore. Guardi, lei guardi, quella telefonata lì doveva mettere giù e dargli dello stronzo e non parlarne non più. È così, punto. Non è così, non la penso. Questa così è la mia opinione. Non la penso così. Può fare quello che vuole. Sì, faccio un dibattito, scateno opinioni sulle frasi di Squitieri. Non è che me le posso dimenticare quelle frasi, non è che sono state pronunciate in diretta, questo è giusto. Esistono? Ma tu come la pensi rispetto a quelle porcherie? Ma l'ho già detto. Un conto è scatenare e tirar fuori giustamente un dibattito su questo, ma poi l'ascoltatore ti dice: lei che ne pensa di questa roba? Ma si può dire che è una porcheria? Ma è una roba assurda. Come si fa a dire quelle frasi? Ripetiamolo. Il problema è prenderlo. Non magari è... tu la pensi così. Non ci sarebbe nulla di male. Ma no? Ti pare possibile che io possa pensare che così? So? Non lo so. Ti pare possibile che io possa pensare che è importante prenderlo a 10 anni? Che come ne ha detto Squitieri? Ma che ne so? Dai, su. E che ne so io? Hai fatto bene a dire di no? Ma l'ho detto già all'inizio. Ma è giusto, l'ho detto già venerdì. Chi si sintonizza oggi dice: mamma mia, chissà come la pensi. Federico, allora? No, stavo dicendo che c'è una discriminante, che non è che siete al bar che state parlando fra voi due. Sì, in parte sì, in parte. Ma ci sono milioni di persone. Ho capito, ma che devo fare? Che ha telefonato prima. Che guardi, cioè, è una cosa proprio psicologia spiccia. Se io le dico una cosa, anche se è una cazzata gigante, io la costringo a pensarci, va bene? Se io le dico a sua moglie o suo fidanzato, chi per essa sta scopando con uno, lei sa che non è vero, perché sono sicuro che la sua ragazza è una bravissima ragazza. Però la costringa a pensare, capito? Dunque? È la stessa cosa, questo concetto qua, ci sono milioni di ascoltatori e sono sicuro che almeno uno o due squilibrati che fanno? Ci sono. Dunque? E che fanno? Quando che fanno? Gli squilibrati bambina, che... incitamento allo stupro, ma che c'entra lo stupro in questo caso? Non c'entra nulla lo stupro in questo caso, scusi, Non c'entra niente. Uno di 20 anni, di 25 anni va con una di 10 anni. Di 13 ha detto legalmente. Legalmente. Io guardi, poi per carità, lei è legittimato, ci mancherebbe altro ad avere le sue legittimissime opinioni. Io dico che per me sta facendo un errore e magari ho capito, ma qui chi davanti a uno specchio parlerà. Ma scusi, ma chi ha legittimato una cosa del genere? Conto che può aver fatto qualche minchiata. Ma scusi, ma le pare possibile che io stronzate tutti i le pare possibile che io ho legittimato una cosa di questo tipo? Ma è impazzito? Allora, io dico no. Io allora, se lei si intendesse un attimino di psicologia, se certe cose se ne parla, la mente umana funziona di modo tale che uno è costretto a pensare. Ma ho capito, ma questo vale per tutto, anche se uno se dice... Io parlo dei capi di sterminio nazisti, sono costretto a pensarci. Se parlo dei gulag, sono costretto a pensarci. Se parlo di qualsiasi cosa, sono costretto a pensarci. Va bene. È la stessa cosa, posso pensare di fare l'amore con una bambina di 10 anni. Ma nessuno ha fatto l'elogio del sesso con una tredicenne o con una persona di 10 anni. Ma lei sta scherzando, sta veramente impazzendo. Nessuno ha fatto l'elogio, nessuno può aver pensato che qui c'era qualcuno che faceva l'elogio. No, ma non lo penso nemmeno io. E allora, non lo penso basta. Nemmeno io. Dico solo di non parlarne più, basta. Ma ho capito, non parlarne più. Adesso ne parleremo finché la polemica esiste. Quando la polemica non esisterà più, non ne parleremo più. quando già le prime mestruazioni, la mamma glielo spiega, no? Penso che la donna, una volta che ha avuto le sue mestruazioni, è donna. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico. Gaetano da Bologna, buonasera Gaetano. Buonasera Giuseppe, buonasera Parenzo. Dimmi, dimmi. Guardi, non potevate chiamarmi in un momento migliore. Sì. Stavo guardando insieme a mia moglie, a mia figlia e a mio figlio Che tempo che fa. Sì. Su Abado. E il grandissimo Claudio. Sì. Diceva in questo momento che la cultura serve a capire, a discernere tra il bene e il male. Sì. Io ascolto la tua trasmissione con molto piacere, leggera, anche trasgressiva, mi diverto tanto, però c'è secondo me la capacità, la possibilità di vedere dov'è il limite. Sì. Io non ti voglio fare, mi riferisco alle frasi incredibili che ha detto quel disgraziato lì che ha intervistato l'altro giorno, quel regista che diceva delle cose oscene. Adesso non sto a giudicare te, il tuo lavoro lo fai molto bene, allora... però secondo me c'è la possibilità, anche perché se non siamo capaci a un certo punto di mettere un paletto, un limite, di fermare qualcuno che va oltre il limite, e finisce che io domani chiamo e anziché parlare mi metto a ruttare al telefono e tu dici vabbè, cosa vuoi, ha voluto ruttare, l'ho fatto ruttare. No, se io chiamo e dico guarda che voglio ruttare al telefono, tu mi dici guarda non mi interessa. Ecco, probabilmente quello che ha fatto quel signore lì è molto peggio che mettersi a ruttare al telefono, a fare altro. Ha veramente trasmesso qualcosa che noi uomini, cioè noi, te, poi un persona di cultura, persona senza, avresti probabilmente dovuto gestire in un altro modo. Guarda, non è ma non c'è nulla da gestire, è durato 7-8 minuti questo intervento qua, in cui ha vomitato queste cose qui. In realtà poi voleva dire che ci vuole educazione sessuale anche nei confronti di minori, certo non è stato il modo migliore per dirlo. Ha detto delle cose una delle sue prime esperienze sessuali con una tredicenne, ha parlato delle sue figlie che secondo lui eccetera eccetera, quello che abbiamo detto, che abbiamo sentito ormai mille volte, parole secondo me assurde, ma che avevano un significato, che è quello che lui ha spiegato dopo nel secondo intervento, quando si è visto assaltato e criticato da una marea di gente. Punto e basta. Le critiche a me ci stanno, io mi piglio le pietre addosso. No, ma guarda benissimo. Cosa avrei dovuto fare? Interrompere la comunicazione e dare dello stronzo perché ha detto queste cose sulle sue figlie? Ma sono affari suoi quello che vuole dalle sue figlie. Se l'avesse detto. Io non ti ho chiamato per scagliarti una pietra addosso, ti ho chiamato per interagire su un argomento secondo me sensibile. Solo questo. Va bene, quindi, ma che sia sensibile, che sia sensibile, ecco, non è che me lo devi dire lei, per carità, detto con tutto il rispetto, è evidente un argomento sensibile, dopodiché se ne può parlare apertamente, qui si parla di tutto, anche di cose molto sensibili, di cose molto delicate. Siete noiosi, tu e Parenzo, non fate altro che parlare o di Berlusconi o della Rubi, ma non solo poi, siete anche scarsi, come giornalisti siete molto scarsi, non mi piacete per niente. Giuseppe da Belluno, buonasera. Buonasera Cruciani. Sì, allora? Allora, mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Sì, ma lei intanto dovrebbe togliersi il viva voce, chiama da una come valle, prima, lei, come prima cosa. Una casa. Deve prendere il telefono in mano, il viva voce non lo sopporto, si sente male, si sente in maniera oscena. Beh, adesso mi sente? Sì, più o meno, vabbè, comunque. Lei è col viva voce, con l'auricolare, com'è? No. Sono diretto adesso, solo che non ho nell'orecchio la frontale. Dove l'ha messo? Ce l'ha frontale. Allora, vabbè. Il mio sassolino nella scarpa è che tempo fa ho sentito il suo collega dire con disprezzo adesso chiamerà qualche camionista, perché lui considera gli altri o quelli che fanno i lavori manuali degli ignoranti. Mai detto, mai o della detto. Gente di poca cultura. Allora io vorrei dire al signore, mai pensato questo. Comunque il suo atteggiamento, siccome lei mai considera gli altri questo. Razzisti, il suo atteggiamento è quello. Io le dico che essendo se io di sinistra dichiarata, visto che mi si accusa sempre, io sono di sinistra dichiarata, non posso che apprezzare chi fa un attimo bravo. Un attimo. Anna Re? Sì. Giuseppe? Ciao. Aspetta un attimo. Sì. Ma che stai a fare? Devi abbassare la televisione? Abbassare la televisione sì, perché sennò che faccio? Come stai? Stiamo di ammazzare. A chi? Questa è una figlia della mignota. Ma chi è una figlia della mignota? La televisione, dici? Abbassa sta televisione, Annarella. Ma chi è? Sono Giuseppe Cruciani. Non te sento, è quella fregatura. Sono Giuseppe, qui dalla Zanzara. Ah, disgraziati. Allora, come stai? È come un altro... Sempre lì a casa a goderti la pensione. Che stai vedendo in televisione, Andrea? No, sto vedendo una cosa che a voi non ti interessa. Dimmi una cosa, ma scusami un attimo, ma questo Berlusconi che si è presentato dentro la sede, ma riportarci su a voto faccio un altro voto quando è che già ce l'ho detto l'altro giorno a cosa, come si chiama, a chi l'hai detto? A Renzi, a disgraziato. Molto affari sua. Perché? Io non faccio un troppo a nessuno, quello che ho da dire dico, sa? Ma quando l'hai detto a Renzi, scusa? È venerdì. E che gli hai detto? Gli ho detto disgraziato, in sta coppia con quel tio della mignotta. Intanto l'ha fatto entrare lì alla sede del Partito Democratico. Qua ha messo pure tutto il coso di Cechepare. Ma scusa, non è stato bravo? Beh, in questo giusto caso. Però, Annarella, scusa. Senti, però, lui doveva parlare con qua, deve parlare con tutti, deve cambiare la legge. Parlare con tutti. Ho capito, ma che effetto ti ha fatto vedere in televisione Berlusconi che entrava dentro la sede del partito? Perché io dovevo andare là e non c'è sul nato. E perché non ci sei andata? Perché se andavo là altri che ova. Che gli dicevi? Facevi l'inferno se andavi là. Perché io poi entro all'entrata che entra lui, io mica entro a parte di quando stanno tutti, entro a parte. E dunque? Io entro all'altri posti. Ma non ho capito. Mica te che adesso ti tengono dei fuori, solo io vado dentro. No, però scusami una cosa, Andare, io ti voglio chiedere una cosa, ma alla fine ha fatto bene Renzi oppure no? Oppure non doveva permettere questo affronto? Ma nessuno doveva parlare. E ho capito, ma questo. Ma sei il primo che dice che è il pregiudicato? E me non è il pregiudicato. E ho capito, e dunque bisogna fare delle trattative con i pregiudicati? No. E allora? E allora sono 60 minuti con un culo e due tagliuti. Nuovo detto. Scusa, ma come parolacci. Ma come si è fatto, come bisogna scrivere il patto con Berlusconi? Che cavolo, io poi manco ho capito che cazzo. A me non mi piace per niente, a me non mi è mai piaciuto Renzi, perché io ho votato a Cuperlo. Perché Cuperlo è un signore, come parla, come educato e come tu. E Renzi è troppo uguale. È il cacchierone, è il compagno del Berlusconi. Dici? E io non c'ho fiducia. È uguale a Berlusconi, di la verità. È uguale. Vabbè, abbiamo capito che anche Annarella è contro questo accordo tra Renzi e... Ma chi sta a parlare? Piedra ballerina. Ma è Parenzo. Ciao. Ciao, cara. Quando vengi? Io torno a Roma domani, nonnina. Come stai? Ma perché nonnina? Perché la chiami nonnina? Io ho fatto 87 anni. Nonnina. Mamma mia, 87 anni. Mica sarà giovane. Era dolce, era nonnina, la nonnina della 87 zanzara. Anni. Ma che hai mangiato stasera, nonnina? Ho mangiato a testarella d'abbacchi al forno con le patatine. Mortacci, sembra pure quello. Abbacchi al forno con le patatine. Ma scusa, io vorrei dire una cosa, ma alla fine Renzi ha rimesso in pista Berlusconi. È quello che dico io. Io stavolta non ce vado a buttare. Secondo come vanno le cose vado manco a buttare. Insomma, questa cosa a te ti sta sulle palle, diciamo la verità. Sì, mi sta sulle palle, proprio. Ti sta sulle palle. Che doveva fare, però? È quello il segretario di un partito, Ma che segretario? Quello è il pio della mignotta che ha rubato a tutti, ci ha fatto rimanere in mutande. Ma come fate rimanere in mutande? Scusa, ma... Che l'altro giorno ho beccato, cioè venerdì ho beccato pure coso. Che hai beccato? Quello che non sta il Pirellone da Lega. Sì, a Maroni. Maroni, che gli hai detto a Maroni? Quante glielo ho detto? Che gli hai detto? Che sta figlia della mignotta, li portacci tu, guarda chi ne dice, andà la stessa carne che c'ha tu, è più scura in faccia. Ma voi siete proprio dei razzisti, dei soccioni, li mortacci, questa figlia della mignotta io. E lui come l'ha risposto? Dice pure, sì, pure, sei in piedi della mignotta. Perché dici che per quelle cose sulla chienghe, no? Quelle cose sulla chienghe. Comunque sai che ci ha detto a noi la Santanchè l'altro giorno, Annalè? Ci ha detto una cosa. Ha detto che bisogna coltivare la verginità, cioè la verginità, la fedeltà, e le donne non devono darla, non la devono dare, capito? Ma danno pure le monache, ha visto le monache che hanno partorito? Chi? Ha visto le monache, sì. La monaca ha partorito, sì, l'hanno buttato i fuochi. Senti, mia madre è stata tanti anni in collegio, no? Perché sì, allora? Cioè, erano sette figli e morì la madre, che lasciò sette figlie e più grande aveva 14 anni. Allora? È stato dai Filippini a Frascati in collegio. Allora? Beh, quando hanno bombardato Frascati, hanno trovato più ossa dei neonati che Dio solo sa, e stava sera alle 8 quello che facevano per le monache, che non te dico. Che facevano ste monache? Che facevano? Ce lo mettevano. Che facevano? Scusa? Ce lo mettevano. Ce lo mettevano? Ma chi glielo metteva le monache? Ma chi ce lo metteva? Se te li giocavano per le monache. E vabbè, ho capito, ma chi era che glielo metteva? Quelli che ce l'avevano. Questo non l'ho capito, francamente. Ciao, cara, buonanotte. Ma commenta, non si è detto di più. Vabbè, oh, siamo qua. Io no, sto... sa che l'altro giorno mi ha telefonato il GBL, che cazzo ne so. Chi ti ha telefonato? Mi ha telefonato, gli ho detto, ma che sei in calabrese, in siciliano, io chi non era? Ho capito niente. Ma chi era? Hanno fatto uno scherzo per la radio, che ne so io. Vabbè, ma quelli ti fanno gli scherzi, ma che te frega te? Ma che ne frega me? Ciao, nonnina. Ciao, amore mio. Ciao, nonnina. Ciao, astrozza. Salutami a Biancofiori. Ciao. Beh, chi la vede? Ciao, quella? Cara, ciao. Ciao. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città. Enzo da Bari, buonasera Enzo. Pronto, buonasera. Allora? Senta, posso dire una cosa riguardo la Lega? Volevi spezzare una lancia in favore della Lega. Dimmi, dimmi. Se, perché loro giustamente non sono razzisti, sono gli altri, sono neri. poi un'altra cosina. Questa è buona, bravo. Non lo so, sai la differenza tra la Lega e la Sega? Tra la Lega e la Sega, qual è? Non c'è nessuna differenza, sono tutti e due i movimenti del cazzo. Ah, che stupido. Questa è già una freddura. Io sono barese, sono paesano di uno dei due varò. Sì, allora? Però una cosa voglio capire, ma li vogliamo santificare queste persone? Non perché lo so. Se poco venisse fuori il fatto che sono colpevole, che hanno ucciso due persone, che cazzo ne facciamo? Che abbiano ucciso due persone, non c'è dubbio. Li condannato, perché qui io sono un paesano di uno dei due. Nel paese sembra che li vanno santificati, ci manca poco, li mettono alla gloria degli altari. Quindi aspettiamo almeno che venga fuori il processo, venga una condanna oppure una soluzione. Sì, ma veloce però questa storia, senza pena di morte, Ciao caro, ciao. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Sei ancora a casa, Ivo? Dai il becco su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Grazie, ma peggio è. Oh, c'è un arcivescovo spagnolo appena nominato da Bergoglio. Che dice che l'omosessualità è una malattia curabile come l'ipertensione. Una deficienza del corpo umano come l'ipertensione può essere curata con uno specifico trattamento. Capito? Da pochi giorni nominato cardinale da Papa Francesco. Questo è Spagna, cioè è cardinale lì, no? Nel Gotha del Vaticano. E dice che l'omosessualità è una malattia curabile, è un modo deficitario di esprimere la propria sessualità. Nel nostro corpo abbiamo molte lacune, io per esempio ho l'ipertensione, mica mi arrabbio, si tratta di una carenza che devo correggere con un'apposita terapia. Così è l'omosessualità, che in molti casi può essere curata con un trattamento adeguato. Capito? Beh, lo sa Papa Francesco questo. È un cardinale appena nominato dal Papa. Sempre via i proci. Abbiamo un ospite graditissimo tra qualche istante, però prima volevo sentire Marco da Roma, Marco da Roma, molti mi attaccano per questa cosa di Squidieri, ma io me ne frego. Marco. Buonasera. Sì, allora? Salve Cruciani, capisco che lei se ne fotta, in realtà credo che sia semplicemente un problema di comprensione del problema che l'ascoltatore prima ha provato a spiegarle, non sono sicuro che sia stato colto. Come diceva lui, lei non istiga alla prostituzione. Beh, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Ecco, appunto, allora... Di sciocchezze capita di dirne, ma non così grandi. Il problema è che non avendo attaccato e condannato da principio le parole di Squittieri della settimana scorsa, avendole riproposte stasera, sì, senza condannarle così seccamente. Ma io le ho condannate dicendo che non mi piacciono, ma si riferiva alle sue figlie. Si riferiva alle sue, non è che ha detto che tutte le bambine di 10 anni devono perdere la verginità, altrimenti è una vergogna. Ha detto le sue, alle ragazze, alle sue figlie di 10, 12, non c'è bisogno che ripeto le parole, no? No, assolutamente. E allora io non ho legittimato nessuno, caro Marco. Io non ho legittimato nessuno. Cruciani, incoscientemente lei, sì, l'ha fatto, incoscientemente. Cerchi di capire semplicemente la sottile differenza. Ha provato a spiegarglielo l'ascoltatore di prima. Ma non c'è nessuno incoscientemente. Ma che vuol dire incoscientemente? Non vuol dire niente. Dai, ok, Cruciani, mi dispiace perché lei non è stupido e ha in mano. Ma, senta, io non ho legittimato nessuno. Potentissimo. Ma ha detto una schifezza. Conto. Ne parli con persone che le sapranno spiegare meglio di me il funzionamento di alcuni meccanismi mentali. Lei purtroppo ha in mano uno strumento potentissimo come la radio e un canale ascoltato come Radio 24 e rischia anche di fare delle sciocchezze. Quello rischiamo tutti di fare, ma tutti rischiamo di fare delle sciocchezze ogni giorno, ma che vuol dire? Se la studi per conoscere meglio il mezzo che utilizza. Ma guardi, io il mezzo che utilizzo lo conosco benissimo, non si preoccupi. Non credo, no, dalle parole di stasera. Ma guardi, ma lo conosco. Probabilmente sa come fare ascolti, dire un figo ogni tanto aiuta. Senta, io ho allora qui le cose sono due. Allora, lei ha dato, lei in questo momento è continuando a rispondermi anziché dire Marco hai ragione, scusami. Ma ha ragione di che? Su che cosa? Ho degli amici psicologi, domani li chiamo e gli ma chiedo psicologi perché, di che? Ma ha detto una frase, ma ha detto una frase che riguarda le sue figlie, una frase terrificante. Sono secondo me, che era una provocazione, peraltro lui è tornato, è intervenuto una seconda volta dicendo, Marco, che era una l'ascoltatore di prima ha provato a farle un'esercizio. Ma ho capito, ma non è che lei pensa di avere la ragione in tasca? Lei pensa per parlare con Squittieri uno ascolta un personaggio alla radio e subdolamente pensa che quello è un personaggio di cui ci si ma può non fidare. È vero, ma lei non è così. Con qualcuno di cui si fida, ma non è vero. Lei pensa che le persone siano stupide. Scusami se te lo dico, ma la tua donna è una gran zoccola. Vabbè, ma chi se ne frega? Non ci crede perché la tua donna non è. Ma lei pensa che le persone che ascolti siano. Ma accende. Io penso che le persone all'ascolto possano farsi accendere delle strane piccole spie. Sì, e come diceva quello di prima, se su un milione di ascoltatori un cretino si fa accendere una piccola spia. Ma su che cosa? Ma su che cosa? Ma non c'è nessun incitamento a nulla, ma lei dice delle cose folli che non esistono. Vabbè, arrivederci, buonasera. Adesso va a finire che la colpa è mia perché Squittieri dice delle cose assurde. Dai, su. È con noi Don Franco Barbero, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Grande Don Franco. C'è la abbastanza bene, c'è da vecchietto, ma ancora arzillo. Beh, arzillo. Sempre don, no? Sempre prete. Sì. Beh, un po', come dire, un po' messo da parte, però. Mai. Messo da parte dai vertici vaticani, no? Da tempo ormai. Ma quello che decidono i vertici vaticani non è sempre quello che noi facciamo. Scusi. Ho conservato tutto il ministero e tutta la mia libertà. Scusi, Don Franco, ma ha letto questa notizia clamorosa, sicuramente l'avrà sentita, di questa suora che è rimasta incinta, questa suora centroamericana che è rimasta incinta e che ha partorito questo bambino. Che ne dice lei di questa vicenda? Mi auguro che sia felice. Beh, questo tutti ovviamente. Speriamo, sì. Ma deve essere cacciata dalla Chiesa, secondo lei? Come? Deve essere cacciata dalla Chiesa? Ma no, sarebbe bene aprire i conventi, non fare le cose di nascosto. Beh, adesso, come di nascosto? Credo che tutti che i conventi. L'amore e la fede vanno sempre d'accordo. Poi toccherà lei decidere. Sì, per me è importante che lei possa liberamente decidere che cosa scegliere. Cioè, scusi ma un attimo, tra l'amore e la fede non c'è contrasto. D'accordo, questo anch'io la penso così, però aprire i conventi Don significa Franco, sostanzialmente trasformare i conventi con le suore, non dico in una sorta di bordello, per carità, perché non è che, però insomma, secondo lei gli uomini dovrebbero entrare tranquillamente nei conventi anche femminili, potrebbero entrare o no? Si immagina una cosa di questo tipo? Io credo che ognuno possa scegliere, ma vivere insieme o il celibato o l'amore deve essere una scelta che non ha nulla a che fare col bordello. No, credo che esistano delle relazioni molto belle, poi ognuno potrà scegliere. Quello che non vedo bene nell'attuale disciplina ecclesiastica è il permanere di leggi assolute, come il celibato assoluto, e quindi lasciamo che le persone scelgano. Ok, d'accordo, ma però questa suora aveva fatto, come dire, un giuramento di, no, una si è sposata con Cristo, ha fatto un impegno davanti ad un'istituzione. Nella vita tante persone possono scegliere per un periodo di essere celibi e poi desiderare invece un cambiamento. Ma guardi, ma lei, Don Franco, lei, Don Franco, ad esempio, ha amato magari delle donne o degli uomini in vita o sua? O magari delle religiose? Delle no, sue... io sono felicemente sposato da 22 anni e credo che sia una delle benedizioni per il mio ministero. Non ho chiesto permesso a nessuno, ci mancherebbe, da persona adulta. Ma sposato in che senso, scusi? Sposato con una donna. Ma la differenza è tra chi i rapporti li ha nel nascondimento, oppure chi soffre una solitudine desolata, o chi invece fa le cose alla luce del sole. Ma credo che questo sia tra moltissimi preti ormai vigente. Cioè, secondo lei ci sono moltissimi preti che hanno rapporti sessuali, che hanno dei rapporti. Ma guardi, un primo ministro della Chiesa, che era Pietro, siccome portò Gesù a casa della suocera, evidentemente aveva una moglie, perché non ho mai sentito di una suocera senza la moglie. Ma secondo lei in che percentuale sono i preti che hanno rapporti o che hanno rapporti sessuali, che hanno fidanzate, diciamo, i preti fidanzati, quanti sono? Possiamo fare una percentuale? Io credo che una bella metà siano i preti che hanno rapporti, che sovente devono vivere una costrizione al nascondimento. Metà addirittura? Penso proprio di sì. E le suore? L'esperienza è proprio di questo genere. Ma vede, io non condanno, non giudico le persone, condanno l'ipocrisia vaticana, che queste cose le sa. E anziché parlare della lobby dei gay, parli della lobby dei banchieri, parli della lobby dei cardinali. È qui che dobbiamo smetterla un po' di toccare questi tasti. Scusi un attimo. I gay fossero liberi di amarsi. Ma quanti preti gay ci sono? Quanti preti gay ci sono, secondo lei, come percentuale? Tanti. Io non sono un ufficio di statistica. Vabbè, più o meno. La mia, pensando ai calcoli che ha fatto Suor Gremi, che Padre Nugent in America, certamente raggiungiamo un 25-30% nella Chiesa cattolica. Cioè 25-30% sono omosessuali, 25-30%. Di quale ricchezza di sentimenti, di emozioni, non c'è dubbio, di affettività viene invece costretta al nascondimento. Scusi un attimo, e le suore invece? Ah, ne conosco di meno suore, ne conosco alcune, ma di meno, non ho tanta conoscenza della... Però anche lì, secondo lei, l'attività sessuale è una roba normale? Ma non saprei, sai, io non mi occupo tanto di questo campo, ma credo che ci sia l'uno e l'altra. Ma non capisco. Non è lì il centro del mio interesse. Il mio interesse è la libertà delle persone. No, ma questo è d'accordo, questo anch'io. Però è interessante sapere, secondo lei, quante suore alla fine praticano il sesso. Cioè, ha capito che voglio dire? Ne conosco alcune che sono con me in dialogo, mi parlano di questa realtà. E che le raccontano? Che le raccontano? Mi raccontano la difficoltà a vivere in certe situazioni, si domandano qual è la volontà di Dio al loro riguardo. Ma quante persone, ma con chi hanno relazioni? Con persone al di fuori del convento oppure o persone? Ci possono essere tutte e due le situazioni, tutte e due. Conosco situazioni molto diverse. Cioè con preti, relazioni tra preti e suore e anche suore che hanno relazioni all'esterno? Ma guardi, la fattispecie delle relazioni è veramente molteplice. Comunque non tocca a me fare delle percentuali. Io voglio solo dire che, amando la mia chiesa, la vorrei un pochettino più fiduciosa nelle persone, e un pochettino più distaccata dal denaro, dalle carriere. Queste sono le cose. E anche, vede, oggi il cardinale vicario, che la eco della volontà del Papa, combatte contro il sindaco di Roma perché vogliono fermare il registro delle unioni civili, ma ditemi un po'. Allora bisogna dirsi che su questo Papa, cui voglio un gran bene, non bisogna farsi delle illusioni. Ah, ecco, non è vero che è così favorevole ai gay. Il cardinal Vallini è l'ombra del cardinal Papa. Vallini. E il Papa, in un libro che ho ben presente, scriveva che le unioni omosessuali sono un reale e grave regresso antropologico. Oh, vabbè, il Papa è fermo a 5 secoli fa, ma, questi insomma, terreni. Ma questo è importante, ma è una voce. Ma mi sembra che ultimamente invece questo Papa qualche passo in avanti importante l'ha fatto. Non è che dall'oggi al domani il Papa può dire viva l'arcigay, però, perché insomma sempre Papa terreni, su alcuni terreni ha dato un'empatia, una sensibilità contro la guerra. Ha anche demolito una parte dello York. Ma lei si chiede. Ma lei esercita sempre, Don Franco? Io non riesco a capire. Lei ha una sua chiesa di riferimento? Altro che di esperimento, ho dei gruppi infiniti. Però scusi, Don Franco, le volevo chiedere l'ultima cosa. Ma questa suora qui che ha partorito, no? Alla fine, secondo lei, ha partorito, non è che non si è resa conto, si è parlato di parto a sua insaputa. Ma io vede, non conoscendo direttamente la persona, mi affido poco a tutte le notizie giornalistiche. Ritengo che dobbiamo lasciarle vivere il suo cammino. Deve comunque può tranquillamente restare in convento, secondo lei? Ma perché no? Cioè il bambino può essere il bambino può essere cresciuto tranquillamente dalle suore del convento. Ma perché no? Ma perché il padre che viene anche lui a far visita, ma bisogna ampliare la visione delle relazioni. Assolutamente. Il Papa, per esempio, perché non va, il Papa sarebbe meraviglioso, il Papa che va a trovare questa suora, sarebbe una cosa meravigliosa, diciamo la verità. Benedirla anche magari. Sì, lì può anche arrivare, perché vedo che il vescovo ha già preannunciato una visita. Ma insomma, il Papa andasse a trovare questa suorina, dai, su. Ma io guardi, non mi aspetto tanto dal Papa, mi aspetto molto dalla coscienza civile. Vabbè. Di una responsabilità anche ecclesiale, quindi bisogna imparare a prendere delle decisioni. Ma lei è mai stato la prima volta che ha fatto l'amore da prete, quando è stato? Subito. È stato certamente con mia moglie. Ma dopo quanti anni? Dopo quanti anni da quando ha indossato la tonaca? Dopo 30 anni. Dopo 30 anni. Per 30 anni lei non ha fatto niente. Certo, certamente. Dopo 30 anni. Il celibato l'ho vissuto integralmente. E adesso lei fa il prete ed è sposato e continua a fare il prete. Certo, per carità, scusi. Va bene, grazie Don Franco, saluti. A presto, caro, arrivederci. Non me moleste moschito. Vabbè, allora, dove andiamo? Federica, provincia di Latina. Buonasera Crusani, Parenzo. Io volevo dire semplicemente che, a parte che non accetto lezioni di fedeltà da una come la Santanchè, numero uno. Ma che ne sa lei della vita delle persone? Beh no, almeno per quello che riguarda politicamente e per quello che ha sempre detto, insomma non mi sembra una persona particolarmente fedele. Lei parlava dell'amore, delle relazioni umane, del sesso, queste robe qua, dai. Vabbè appunto. E ripeto, da una gola tanto anche no. E comunque invece rispetto al genio di Campobasso, gli volevo semplicemente dire che uno, così si crescono piccole ciccioline che poi insomma diventeranno adulte, numero uno. Numero due, non puoi dire a una bambina di 10 anni o sbrigati, dai, che oramai sei una donna, quello... e ora che la dai, anche perché così diventiamo tutti come delle famiglie di zingari, che a 25 anni abbiamo 180 bambini. E non mi sembra una cosa normale, a bambini che allevano bambini. Ma cosa vuole poi lei dopo dire? Ci lamentiamo se i ragazzini se le nuove generazioni sono sbagliate per tanti versi, eccetera, eccetera. Se i ragazzini di 10, 11, 13 anni devono allevare altri bambini, boh. Vabbè, ma non è che uno deve rimanere forza incinta, innanzitutto. Beh, però ha ragione. Mario da Genova, Mario. Intanto il prete di prima è ridotto allo stato laicale, non c'è più la tonaca, cioè, è ridotto allo stato laicale. Mario? Sì, buonasera, mi sente? Vai, vai. Sì, senti, Cruciani, io capisco tutto. Al mondo ci vuole un po' di coraggio qualche volta. Sì. Quindi, se tu... Tu secondo me hai fatto un errore grosso con la faccenda Squitieri. Ancora sempre questa cosa, mamma mia che palle. Scusa, sto parlando io. E beh, allora che stai parlando tu non posso parlare io, non ho capito. Eh no, si parla una volta per uno. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Cioè... Ah, allora parla tu, parliamo assieme, va bene. Ma parla, ma ti ho detto solamente che palle, abbi pazienza. Cioè, ho anche detto... io ti dico che palle quando fai tutti quei discorsi doiosissimi che fai. Comunque. Se tu hai le palle, visto che parli di palle, se hai un po' di coraggio, sì, fai una dichiarazione. Coraggio non è una cosa, l'ha detto anche il Manzoni qualche volta, no? Allora che vuoi? Eh? Che devo fare? Non ho capito, che dovrei fare? Devi fare una bella dichiarazione, sì, dicendo che quello Squitieri, sì, è veramente una persona immonda. Ma io non lo dico che è una persona immonda, capito? Non lo dico. Ha detto quello che pensava, non sono tenuto a dire, perché lo vuoi tu, che è una persona immonda. Dico semplicemente che le parole che ha pronunciato non mi piacciono. No, punto. Questo certo, certo. Basta, non dico che una... Sei un vigliacco. Ma va vai a quel paese. Ma che cazzo dici, un vigliacco? Ma che c'entra vigliacco? Perché sarei un vigliacco? Spiegami. Vigliacco. Vabbè, fenomeno, fenomeno. Perché vigliacco? Spiegami. Perché vigliacco? Perché con un po' di coraggio potresti capire che hai fatto tanto male, ma a chi? Non reagire. Ma a chi? Non reagire. A chi? Vabbè, secondo lui. Sentiamo domani, ciao. Ciao, amore mio, state bene, salutami a Bianco Fiori. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Radio 24, la passione si sente.